בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Ora, carissimo Maurizio, sono le 21:03 minuti. Siamo quasi in perfetto orario, quasi in perfetto orario. Quasi puntuali. Sì, no? Sì, certamente. Allora, questa sera altra intervista telefonica. Sì, eh? Con gruppo... Senti un po'. Dimmi. Ho voluto iniziare in una maniera diversa questa sera, caro Maurizio, così per presentare il carissimo Dario. Ciao Dario Mattoni dei Recchiabilli. Buonasera a voi. Buonasera, ciao. Dario, come stai? Bene? Bene, benone. Qua la musica si sta sempre bene, Dario, cosa dici? Beh, è fatta apposta. Appunto. Poi la vostra musica fa ancora apposta per star bene, secondo me. Quella è ancora più apposta, sì. Esattamente. No, però effettivamente cioè, è bello essere, far fare musicista. Anche adesso mentre ascoltavo la radio dico che bello, adesso mi intervistano. Allora, Dario Mattoni, il frontman dei Recchiabilli, poi racconteremo un po' tutto, chi sono i Recchiabilli, da dove provengono. Comunque ci stai chiamando dalla Puglia. Sì. Dove precisamente, Dario? Da Bari, tra due minuti a Bari Vecchia, esattamente. Ah, bene. C'è un bel sole, spero di sì, vero? Sì. Beh, qua oggi giornata estiva. È arrivata l'estate, ma cosa dici? Sì, ha voglia. Ma penso anche in Veneto, no? Sì, sicuramente. Oggi è una giornata meravigliosa. Sì, assolutamente. Da tre giorni è finalmente arrivata un po' d'estate anche da noi, perché nel nord è veramente stata incredibile. Era ora. Allora, Dario, io volevo ringraziare prima di tutto Paolo Tocco della Protosound. Che anche io. È doveroso, siamo rimasti in contatto e Paolo ha permesso, appunto, ha fatto in modo di organizzare questa intervista con i Recchiabilli. Allora, prima di raccontare un po' tutto, io voglio iniziare con te questa sera parlando di una persona, Guy. Sì. Portoghese. Wow, bellissimo. So che ci tieni. Sì. Sì, Guy Portoghese. Ed è legatissimo al vostro nome, al vostro gruppo. Sì, esatto. Sì, Guy Portoghese, per chi non lo conoscesse, è stato un grande sassofonista, un grandissimo frontman e scrittore di musica swing e rock and roll. Lui ha avuto una band per una decina d'anni, si chiamavano Guy gli Specialisti, era una delle band swing più belle e potenti del territorio italiano, con pezzi originali scritti veramente con gran maestria. Ed era un abile sassofonista, un grandissimo sassofonista, è stato un po' il nostro mentore qui a Bari, perché è stato uno dei primi a portare ad ascoltare rockabilly e rock and roll negli anni 80, essendo più grande di noi ovviamente, e ci ha passato questa passione. E dico è stato perché purtroppo ad ottobre Guy ci ha lasciato. Però ci ha lasciato anche un grandissimo bagaglio di musica, di esperienza, di approccio alla vita, al palco. Abbiamo fatto tanti concerti insieme, inventandoci anche delle formazioni estemporanee. Quindi io ho avuto il piacere di suonare tante volte con lui, è stato proprio un maestro. E poi due di noi, Recchiabilli, sono stati rispettivamente il trombettista e il batterista di Guy gli Specialisti. Quindi un po' di Guy gli Specialisti continua a vivere nei Recchiabilli. C'è ancora. Il rock and roll è una cosa seria, diceva. Sì. Perché fondamentalmente quando lui cominciò ad ascoltare rock and roll, così negli anni 80, quando uscirono gli Stray Cats, Guana Bets, Mark Harmon, i Meteors, eccetera, lui e altri due o tre ragazzi qui a Bari erano i rockabilly. Poi c'era un bel movimento negli anni 80 qui a Bari, c'erano tanti darkettoni, c'erano i metallari, c'erano i punk con la Crystal Exploited e c'erano questi due o tre rockabilly. Insomma, lui da sassofonista ha avuto difficoltà ad affermarsi qui a Bari, perché c'era una musica che andava per la meglio, era il jazz, era il blues, più che altro jazz, e quindi era un po' snobbato, diciamo, dall'ambiente. Certo. E quindi lui diceva fondamentalmente: guardate che il rock and roll non è una cosa, cioè la musica semplice, la musica facile, anche il rock and roll ha un suo linguaggio, il rock and roll è una cosa seria, non va presa sotto gamba. Certo. L'ha detto tante volte anche a noi quando magari ci approcciavamo in maniera un po' superficiale rock and roll, dai, sai, tipo ho fatto un repertorio al volo, due o tre pezzi, anche quando proprio noi siamo nati come Recchi a Big, lui un sacco di volte, cioè l'abbiamo vissuto insieme per 8 anni, ti dico, un sacco di volte ci ha detto aspettate ad uscire a fare un live, studiate, approfondite i testi, approfondite i suoni, e quindi per lui sì, rock and roll era una cosa proprio seria. Infatti gli ultimi suoi anni li ha passati suonando con i Rock and Roll Kamikaze, quei mitici Rock and Roll Kamikaze. È stato un buon consiglio, perché poi è uscito questo secondo CD Banana Split. Comunque ne parleremo. Io passo la parola a Maurizio, che voleva parlare un po' con te. Dario, sì, Michele, ecco, sì. Michele qua degli Eco annuiva quando parlavi di rock and roll. Assolutamente. Di Ai Portoghese, soprattutto di lui, quando parlavi di lui, di questo grande musicista. Ma è conosciuto in Veneto, sì. Sì, è conosciuto in Veneto, ma è conosciuto anche in Emilia Romagna. Michele è di Forlì. Grazie che Rock and Roll Kamikaze, mi dice Michele di Forlì, sì. Quindi è conosciuto assolutamente questo musicista, grande musicista che ha fatto tanti concerti con voi. Rock and roll nell'anima, Dario. Questa è la base di tutta la musica, il rock and roll. Sì. Poi con le diverse aperture, con le diverse sfumature, ma la band, i Ricchi e Billy, partono dal rock and roll, poi lo sviluppano con le rockabilly, tutto quello che vuoi, ma partono sempre dal rock and roll. Sì, è un po' la mamma di tutti. La matrice, roll, la mamma di tutto. La mamma di tutto, sì, di tutti. Io ricordo quando ho cominciato ad approcciarmi al rockabilly e rock and roll proprio tramite Guy, che mi passò i primi dischi. Da ragazzino mi faceva sorridere la cosa di potermi appassionare a un Elvis, a un Jim Vincent, tutto quel movimento là. Perché che so, ascoltavo heavy metal, hard rock, queste cose qua. E quando poi mi dissero, cioè, mi scoprì che fondamentalmente veniva tutto da lì. Certo, e quindi assolutamente. E poi è diventata invece una vera e propria passione, andando a scoprire, a scovare i gruppi, a capire come il suono si è evoluto. È anche più bello poi andare sempre più indietro e scoprire da dove sono nati certi suoni. Questo nuovo album, Dario, è importante perché c'è una piccola svolta, secondo me, leggermente cambiato. Siete riusciti a sperimentare nel rockabilly. Cosa dici, Dario? Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo avuto sempre questa voglia di mischiare le carte, di mescolare il rockabilly, cioè questo comune denominatore nei nostri brani, e poi mescolare un po' di tutto, tutta la musica che ci piace. Shakerate. Non siamo un trio classico, ci è piaciuto. L'altra influenza grossa è quella dello swing. Esattamente, lo swing. Si sente parecchio, infatti siamo lì a suonare con i fiati. È più dura suonare in 5 con sax e tromba, però è anche molto più bella la resa. Certo, a parer mio. Certo. Allora, adesso Gil mi fa cenno, sentiamo un pezzo di... Sì, io direi che è venuto il momento di fare ascoltare anche la tua musica, la musica dei Recchi a Billy, e poi parleremo un po' del gruppo, come è nato, i musicisti, eccetera. Io direi di iniziare da Sisma. Che dici, Dario? Perché no? A voglia. Il singolo, Dario, dai. Due parole veloci su Sisma. No, Sisma è una canzone di protesta, di denuncia più che altro dell'insensibilità dell'uomo ai tempi d'oggi, nei confronti del mondo, no? Certo. Allora ascoltiamoci Sisma dei Recchi a Billy. Spaccherò le nocche, faccio le pellicce, ne ammazzo poche, ammazzano le bisce, taglio la strada a chi non lo capisce. Sisma è il crollo dei palazzi ad un tsunami, sono problemi per esseri umani, ti dà perché le piante e gli animali c'erano ieri e ci saranno domani. Io spendo e spando per Natale e Capodanno, ho più di te, io rompo con l'affanno, se non ci riesco ti auguro un malanno. Getto le carte, getto le lavatrici, poi dico che in civili quando sono con amici, che seguo in auto quando loro vanno in bici. Il sisma è il crollo dei palazzi e lo tsunami, sono problemi per esseri umani, si sa che le piante e gli animali c'erano ieri e ci saranno domani. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Vitalità e buon umore in questo shaker di suoni, no Maurizio? Certamente, swing, Dario. Jazz, country, sì, c'è un po' swingato secondo me, leggermente swingato, volutamente swingato, sì, sì, piacevolmente swingato. Dimmi. È un po' blues, esattamente, piacevolmente swingato, Dario, possiamo dirlo, dai. Bello, bello. Appunto, quella una cosa che ho dimenticato di dire prima, sì, sì. La cosa sì, a livello di generi, sicuramente, ma anche a livello di testi, l'idea di provare a scrivere qualcosa di diverso. Ecco, nel senso che diciamo che questo qui, tipo quello che abbiamo ascoltato, il sisma, tratta temi diversi, diciamo, rispetto a quelli trattati solitamente del rock and roll. Certo. Però c'è da dire che anche lo stesso Brian Setzer, con il loro primo disco, scrisse Storm di Embassy, che un testo proprio spensierato non era, non parlava solo di Cadillac, signorine, motociclette, eccetera, eccetera. Era un bel testo impegnato. Decisamente, decisamente. Sì, rock and roll, per il rock and roll e soprattutto lo swing, rockabilly, può essere impegnato, Dario, assolutamente. Sì, anche su, sì, questa, sì, sì, su questa base leggera, divertente, accattivante, ma i testi possono valere. Sì, quella è un po' la sfida, creare questa... che avete fatto, che avete provato, che avete proseguito, che cercate di fare, no? È questo il discorso, vero Dario? Sì, esatto. Secondo album, Dario, questo qua, dopo Banana Split e questo disco di adesso, ma precedentemente avevate scritto un altro disco, il disco di esordio. Sì. Il disco di esordio, sì, si chiama Rock and Roll. Rock and Roll, esatto. L'abbiamo prodotto noi, nel senso che l'abbiamo registrato noi in uno studio qui da queste parti vicino a Bari, che poi tra l'altro lo studio dove hanno registrato anche i Kamikaze, il primo disco dopo un paio d'anni, poi l'abbiamo coprodotto, l'abbiamo pubblicato insieme a Just the Music, un'etichetta di Bari. Certo. Con la quale abbiamo prodotto anche il primo video, videoclip, Moschito, che insomma ci ha portato un bel po' di fortuna, è piaciuto parecchio, ci ha fatto... Ha smosso le acque il Moschito, sicuramente. Certo, il Moschito, anzi vi consiglio di andare a vedere il video di Moschito su YouTube. Per chi ancora non ha avuto modo di conoscere i Recchiabilli, ha avuto ben 17.000 visualizzazioni, se non sbaglio. Non male. Direi proprio di no. Anche perché lo merita, oltre ad essere un video simpatico che rispecchia proprio il vostro spirito musicale, è un brano veramente molto bello. Facciamo anche una brevissima storia, Dario, dei Recchiabilli. Voi in pratica siete nati nel 2005 nella frizzante Puglia dal punto di vista musicale. Esatto, in pratica sì. Praticamente era la cosa di Recchiabilli nasce dopo una vacanza, eravamo un gruppo di amici, ci siamo fatti una vacanza basking, cioè suonando per strada tra Spagna e Francia, paesi baschi soprattutto, la zona di Sant'Angelo di Bilbao, e ci siamo divertiti veramente tanto. Erano anche tempi diversi, la gente era più generosa, diciamo, quando vedeva degli artisti di strada, e quindi siamo riusciti a stare via un mese partendo con 100 euro a testa. Siamo stati bravi, tra feste private e baschi gentili, insomma, cioè, siamo stati bene. E niente, dopo questa esperienza, direi, elettrizzante, siamo tornati a casa e abbiamo pensato di cominciare a buttare giù pezzi nostri, e così è stato. Da quando è nato il gruppo le formazioni sono cambiate un bel po' di volte. Ora per screzzi che purtroppo succedono, quando si sta molto uniti in un gruppo, si suona tanto insieme, si sta, insomma, culo e camicia, come si dice, insieme, può succedere. E poi altre volte per esigenze, qualcuno che ha deciso di cambiare proprio vita, tipo il nostro primo batterista adesso. È uno scienziato, è in Germania, lavora con dei premi Nobel, ed è un piacere. Stai parlando di Guido Vicenti? No, Guido è ancora con noi, del primo batterista, Roberto Rizzato, che a un certo punto, insomma, ha cambiato proprio strada nella sua vita, ha deciso di dedicarsi a questa cosa qui. Adesso siamo con Guido Vicenti alla batteria, che appunto dicevo è stato il batterista degli Specialisti, certo. Ed è un gran batterista. Una cosa, Dario, dobbiamo sottolineare, dobbiamo dire ai nostri ascoltatori: voi avete suonato con tanta gente, il palco è la vostra casa praticamente, il live, assolutamente. Avete suonato con un sacco di musicisti, e anche siete stati in Germania, siete stati a Zurigo, avete solcato dei locali non da poco, Dario. Sì, ci sono stati in questi anni delle esperienze pazzesche, veramente incredibili. Dopo poco che avevamo organizzato il primo spettacolo, ci è capitata la fortuna di suonare con John Spencer, progetto Rockabilly con i V-Trash, che è un progetto eccezionale che io adoro, continuiamo ad ascoltare, a studiare, e siamo anche per fortuna in contatto con loro, con John Spencer e Matt Bertarelli. Poi abbiamo suonato con grandi gruppi italiani, dagli Omanoff, insomma il vecchio gruppo di Rock'n'Roll Kamikaze, Andy di Rock'n'Roll Kamikaze, Banda Bordeaux, Max Gazzè, un bel po' di gruppi, cioè belle occasioni per capire, insomma, come si sta sul palco, cercando di capire cosa bisogna fare per progredire, per fare quel passetto in più da gruppo dilettante a cercare di riuscire poi a catturare l'attenzione del pubblico. Ed è servito assolutamente, poi è servito anche tantissimo stare fuori. Abbiamo avuto la fortuna di girare un po' sì tra Germania, Irlanda, Svizzera, qualcosina, un po' tutta Italia tramite i gemellaggi con gli altri gruppi, con gli altri colleghi di genere, tra cui le Ubi Dolce, che sono non nostrane ma sono vostrane, sono venete, alle quali sono particolarmente affezionato, ma uno in particolar modo, la mia fidanzata, che è la contrabbassista degli Ubi Dolce. Bene, che salutiamo, salutiamo e ringraziamo, cioè, nel nostro mondo funziona così, ci si scambia contatti e ci si organizza tour. Loro sono venute qui a suonare, ad esempio, così come tanti altri gruppi, e noi siamo nati in Veneto, siamo andati un po' in tutta Italia scambiandoci a volte dei contatti con i gruppi. E niente, quindi sì, noi cerchiamo di andare avanti, cercando di rubare il più possibile dai più bravi, e capire qual è il trucco per conquistare il pubblico, per star bene sul palco. A proposito di musicisti, vogliamo chiamarli per nome, cognome, il tuo gruppo, i Rachiabilli? Come no? Al momento, diciamo appunto, con i vari cambi di formazione, con i vari cambi di squadra, siamo io, chitarra e voce, e Dario Mattoni, quindi. Poi al sax è rimasto invariato da tanti anni, appunto dal 2005 l'abbiamo fondato insieme, Lidia Bitetti. Che dopo farò una parentesi. E dopo faremo una parentesi. Alla tromba è entrato nel 2008 e non se n'è più andato, a me se ne andrà Riccardo Latorre. Che quindi insieme fanno un duo di ottoni eccezionale. Un duo di ottoni veramente eccezionale, che stimo, è veramente un piacere suonare con loro. Da qualche mese è rientrato al suo posto, alla sua seggiola, il piede, perché non è strumento da suonare seduto, il contrabbassista, il nostro primo contrabbassista, che si chiama Giuseppe Leali, che era, vedete, lui per esempio era andato via per studio, poi ci sono stati altri contrabbassisti, abbiamo suonato con altra gente, con i quali abbiamo fatto, con Luciano abbiamo fatto due dischi, il contrabbassista precedente, tra cui appunto Banana Split. E adesso è rientrato Giuseppe dopo 5 anni e abbiamo subito inciso un nuovo singolo proprio qualche settimana fa. Ah, benissimo. Allora. Bene. Allora, e Guido Vincenzi alla batteria, appunto, che abbiamo detto prima. Ne abbiamo parlato prima. Quindi adesso siete in 6? No, siamo in 5. In 5? Perché ho capito, è stata una sostituzione, perfetto. Allora, sì, c'è stata una sostituzione. Allora, Dario, io direi di ascoltarci Notte, Notte, Notte, che è una canzone un po' particolare, con un testo un po' particolare, sì. No? Sì, sì, sì. Che tratta di? Ma tratta della vita notturna dei musicisti, cioè senza genere. Penso che tutti i musicisti fanno un po' sta vita quando sono in giro, esatto. A suonare è così, la notte o anche lo stesso viaggio si trasforma tutto, ti rende tutto più bello, più affascinante, più elettrico, e questo volevamo catturarlo una sera che eravamo dalle parti di Parma. È stata una serata particolarmente bella, particolarmente carica, e non riuscivo proprio a prendere sonno, e allora alle 4 di notte a casa di questi ragazzi che ci ospitavano ci siamo messi lì, ho cominciato a scrivere qualche cosa ed è nato questo pezzo, e da qui si capisce che è anche un CD, bene o male, anche autobiografico. Sì, in alcuni versi sì, certo. Direi proprio di sì. Allora ascoltiamoci Notte, Notte, Notte, i Rachiabilli. Notte, notte, notte, se non ci fosse lei, sarei badato. parte. O commerciale, notte, notte, notte, se non ci fosse lei, così affascinante, sono musicante. Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Ecco, come ti dicevo prima, Dario, una piccola parentesi volevo farla su Lidia Bitetti, questa ragazza con questo sax che dà una grinta eccezionale al vostro gruppo, sicuramente tutto l'assieme, però Lidia veramente l'ho vista anche nel sento il suo sax, è veramente carico. Sì, lei è davvero brava, anche perché è una di quelle che ha studiato veramente. Lei e Ricky sono quelli che hanno frequentato il conservatorio, hanno fatto le cose per bene, tutti gli studi hanno portati a termine. E noi siamo un po', gli altri invece siamo un po' più musicisti da strada. E niente, quindi. Non in senso dispregiativo, logicamente. No, no, in senso, anzi, assolutamente nel senso buono del termine. Sì, certo, certo. Nel senso, se tipo si cresce dalla strada, sono cresciuto per strada, sì, in quel senso lì, sì, poi lezioni un po' quella, però insomma, tornando a Lidia, sì. Lidia ha fatto tutto il suo percorso, dopodiché era, quando abbiamo cominciato a suonare insieme, era terrorizzata dal suo suono molto pulito, appunto, che giustamente il conservatore ti prepara, pulito, intonato, preciso. E allora si è rivolta a Guy perché gli desse una mano a sporcare il suo suono, a renderlo più grintoso, più rock and roll. E quindi hanno studiato un anno insieme, cioè Guy le ha insegnato un pochino delle tecniche, il growl, il graffiato, il frullato, le tecniche che si usano nel rock and roll, nel surf, e poi anche un po' le idee di... Di imboccature piuttosto che ance, e poi infatti le ho avuto un suo sassofono, se non sbaglio, un vecchio sassofono, non voglio dire il nome, non dire una fesseria, ma un sassofono degli anni 20, degli anni 30, che era questa roba sulla quale magari ci spassava veramente tanto tempo. Insomma, gli ha passato tutte queste chicche, diciamo che è un po' l'erede di Guy a livello di frase, di fraseggio, di suono rock and roll qui a Bari, e quindi ha avuto un ottimo maestro, più dei suoi studi, la sua esperienza su tanti tanti palchi, ha tirato fuori questo suono pazzesco. Poi ci dà un grandissimo apporto, perché oltre le frasi, diciamo, pentatoniche rock and roll, avendo tutto quel background di musica classica, tanto studio per il jazz, diciamo che arricchisce un bel po' il nostro suono. Ritornando a questo pezzo, Dario, c'è il piano, sì. Honky Tonk, il piano di Pierpaolo Vitale, e c'è un po'... Questa è un'altra storia. Esatto, un'altra storia che strizza un pochettino, un po' di Boogie, strizza un po' a lui prima, cosa dici, Dario? Sì, leggermente, sì, sì, ma non c'è niente di male, anzi è una cosa bella, secondo me. No, è bello. In realtà questo disco abbiamo catturato un po' di suoni, di riff, di cose, delle cose che ci piacciono di più, e le abbiamo arrangiate a modo nostro, diciamo, le abbiamo riarrangiate e riadattate a modo nostro, nel senso che nel nostro primo disco, sì, abbiamo cercato di inventare di più a livello di accordi, a livello di suoni, il che va bene, è carino, però per esempio proprio Dai ci disse tutti questi accordi, tutti questi cambi ci stanno bene, va bene, perché è il vostro primo disco, però risulta un po' immaturo come disco, ci diede questo consiglio. E noi insomma siamo stati lì a pensare un pochino, riascoltando, poi nel frattempo sono passati 2 anni dal primo disco, e abbiamo cercato di fare le cose più in maniera più semplice, più diretta, perché fondamentalmente abbiamo capito nel frattempo che non c'è bisogno di mettere 3.000 accordi per renderlo bello un pezzo, anzi certe volte un pezzo ne ha 3 o 4 di accordi, sì, è bellissimo, il problema è come sono suonati quei 3-4 accordi. E allora sì, cioè un giro Boogie alla Luis Prima, sì, era proprio quello che ci voleva, cioè, ricordo un pochino il giro di Jazz Gigolò, però con accordi nostri, è un testo nostro, sì, perché... E poi appunto avendo quel timing lì del Boogie, che Guido è grandioso nel suonare il Boogie, c'è cioè quella mano, quelle due manine che si muovono insieme, che sono spettacolari, non è un tempo facile da fare, me l'hanno detto molti batteristi. E niente, quindi poi là ci voleva per forza un pianoforte. È arrivato Pierpaolo. Esatto, non ci abbiamo pensato 2 volte, perché diciamo che il sesto Rocchiabilli è Paolo Vitale, un nostro amico fraterno, che è di Bari, lui è assolutamente un genio della musica, è un grandissimo cantante, un grandissimo pianista, e ha quella sporcizia, passatemi il termine, anche nel suonare, che è proprio quello che ci serviva. Scusate la sgommata, ma sono a Bari, in centro, quindi è d'obbligo. Ma mi scippa il telefono e si inizia poi l'intervista. Dario, anche questo è Rockabilly, la sgommata. Sì, è proprio l'immagine stessa del Rockabilly. Tu parlavi, hai detto una cosa bella prima. Bari a rock. Bari a rock. Assolutamente. Tu hai detto una cosa bella prima, che Rockabilly non deve avere tanti accordi. È come il punk, ha pochi accordi, ma subito ti entrano immediatamente. Sì, esatto. È quello, testo, è quella l'immagine giusta. Sì, è verissimo. E Pierpaolo suona punk, il pianoforte, ragazzi, cioè, dovete sentirlo, è qualcosa di micidiale, quindi non ci abbiamo pensato 2 volte, lui per fortuna c'è la tecnologia adesso, perché lui vive a Dublino, no? Quindi ci ha registrato la traccia sopra, un bel missaggio e via, sì, se poi l'abbiamo suonato anche dal vivo insieme. 2010, Rock and Rom, cantato in pratica in lingua inglese, e poi nel 2012 arriva la Proto Sound e vi lanciano questa sfida e vi dicono di fare questo CD interamente in lingua italiana. Hanno vinto questa sfida? Eh beh, direi di sì, ce l'hanno imposto, impostori. No, anzi, sono stati dei grandi, perché tante volte è un limite, cioè è veramente difficile fare swing e rock and roll in italiano. Guy ha dimostrato come si può fare in maniera eccellente, però è proprio difficile giocare con le parole in italiano. Quindi si migliora sempre di più, si buttano tanti fogli di carta, perché poi le rileggi il giorno dopo e sono delle frasi assolutamente scude. Le devi ricominciare da capo. Guy però è una sfida stupenda. Guy è stato un precursore su questo. Assolutamente, ha lanciato una sfida che voi avete giustamente continuato. Colto, sì, assolutamente, perché spesso, cioè nel vecchio disco abbiamo provato, poi abbiamo buttato la spugna un po' di volte, ma questo pezzo non può suonare in italiano, cioè, ci vuole un testo in inglese, perché l'inglese è più fluido, bla bla bla bla bla. Ma invece su questo secondo disco abbiamo stretto i denti, ogni volta abbiamo provato, ma no, si può fare, ci dobbiamo provare. Era più, cioè, diciamo, cioè, penso che ce l'abbiamo fatta. Però è tutto in italiano, se poi è corretto non lo so, eh. È in italiano. Lo so. Allora, adesso noi, Dario, diamo una parentesi a una canzone particolare, una canzone che dovrebbe essere il tormentone dell'estate, Tipi da spiaggia. Sì, che è una canzone particolare per voi per una serie di motivi. Vogliamo dire in particolare qual è? Ma fondamentalmente che Tipi da spiaggia è una... è un termine che si usa a Bari per indicare insomma, chiunque è un po' personaggio, capito? Anche d'inverno c'è il tipo da spiaggia, non è solo d'estate a Bari. Cioè, tu vedi un tizio che è vestito un po' particolare, oppure che fa battute sceme, e gli dici si può un tipo da spiaggia. E quindi, volendo fare un pezzo, insomma, estivo, volevamo farlo almeno simpatico, qualcosa di divertente. Siccome noi poi a Bari siamo pieni di tipi da spiaggia, nel senso di... ma ecco, adesso ce ne ho davanti 3 o 4, che stanno prendendo cazzotti per finta. E niente, quindi abbiamo pensato di fare questa canzone qui, parlando di tutte le famiglie, anche le nostre, perché io mi ricordo da ragazzino mia nonna tirava fuori dalla 127 delle cose incredibili, manco Mary Poppins dalla borsa, tirava fuori tavolate per 60 persone, tendalini, 700 ombrelloni, lasagne, parmigiane, sott'aceti, sott'olio, polpo sott'olio, frigorifero con le birre, e quindi abbiamo voluto descrivere un po' questa situazione tipica di queste parti. Nasce con un progetto però questo sì, brano. Sì, poi insomma, essendo c'era il singolo, c'era solo questo brano, qualche settimana prima era uscito un riarrangiamento di un altro brano di Rock and Rome, l'abbiamo fatto un po' più estivo, è uscito con un tempo un po' più calizzo, abbiamo detto due brani dove si mettono su 45 giri, visto che non l'avevamo mai fatto. E allora abbiamo cominciato a informarci con Paolo Tocco, con la Proto Sound, se si poteva fare questa cosa del 45 giri. E niente, poi siamo arrivati all'idea di stamparlo con l'idea del crowdfunding. Cioè, in realtà l'ho proposto io, Paolo, perché qualche mese fa ho comprato dei dischi in crowdfunding. Crowdfunding significa, come saprete, contribuire, raccolta fondi per, sì, contribuire alla stampa, alla produzione di un progetto, di un gruppo. Quindi chiunque può essere coproduttore di un disco, che per me è una cosa, un'idea assolutamente geniale, soprattutto per i tempi che corrono. E quindi abbiamo fatto un po' di giri, un po' di ricerche su internet, abbiamo visto che in Italia era approdata Music Racer, è stato aperto questo sito di crowdfunding, abbiamo chiesto il progetto a Music Racer e insomma ce l'hanno approvato. Quindi un mesetto fa siamo partiti con questa campagna, questa raccolta di fondi per poter stampare il nostro vinile. Quindi dividendo le quote, fondamentalmente i nostri fan, che hanno intenzione di supportarci, chiunque ha voglia di diventare coproduttore, diciamo, di questo progetto, di questo 45 giri di Recchia Billy, può mettere una quota che può essere una minima di 3 euro per il semplice download dei due brani, o 7 euro per comprarsi il vinile, poi lo spediamo a casa, a salire, cioè, poi abbiamo messo anche il mangiadischi, il favoloso mangiadischi, quello che tutti da bambini avevamo, per poter ascoltare il vinile, perché magari se qualcuno a casa non ce l'ha il giradischi, c'è questo gadget che uno si può aggiudicare. Allora, prima di mandarlo in onda, ricorda anche dove possono trovarlo, il sito internet. Il sito internet è www.musicracer.it, credo, com, penso it, e basta digitare, insomma, sono vari progetti, c'è il nostro progetto Recchia Billy, e si fa, praticamente si può collaborare alla produzione di questo disco. c'è anche per chi volesse appunto un concerto in casa, abbiamo messo a disposizione 5 house concert. Per chi si aggiudica l'house concert e quindi diventa uno dei più grandi, per costa un po' di più, diventa un gran produttore di questo progetto, lo raggiungiamo a casa tutti e 5 e organizziamo un bel concertino in casa, una festa, gli porteremo ovviamente tutti i gadget, il vinile in una copia speciale con un disegno solo per quella persona che ha prenotato questa festa. Bene. Allora ascoltiamoci Tipi di spiaggia, da spiaggia dei Rockabilly. Noi siamo tipi da spiaggia e ci svegliamo alle 7 per prendere la branda. Noi siamo tipi da spiaggia con sottaceti e passante. Attendiamo con la panna. Alla faccia di spread e sviluppo. Noi siamo tipi da spiaggia col tatuaggio alle neve, lettere cinesi. Noi siamo tipi da spiaggia con la prova al costume già da molti mesi. La donna con la cuffia, con le margherite gialle, esperti a dire molla, con di penetra gialle di vita pelle. Alla faccia di spread e sviluppo. Noi siamo tipi da spiaggia e ci meniamo nell'acqua per fare il bisogno. La sedia del panino, Nicola e Cero, veloce sotto l'ombrellone, già è la pressione, ma ti devo fare il pagliatone. Agonisti del ballo di gruppo, alla faccia di spread e sviluppo. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Dario, qualcuno vi ha definiti i 5 pugliesi più rock d'Italia. È esagerato o vi riconoscete in questa considerazione? Addirittura, bravo, esatto. Questo qualcuno. Ci fa piacere. Lo sapevo che... Ci fa piacere, molto volentieri. Speriamo, speriamo. Sì, sì, sì, noi ce la mettiamo tutta per essere più rock. Cioè, i baresi, in generale, anche non sapendolo, sono le persone più rock d'Italia. Quindi, dai, ci piace, grazie. Infatti, prima abbiamo detto, Bari è rock. A voglia, ragazzi, è proprio rock. Maurizio, Dario, 11 pezzi, di cui 2 cover, di cui una strumentale, un pezzo molto Motown. Come mai molto Motown questo strumentale, Dario? Boh, è appunto per il discorso che ci piace pigliare un po' da tutto, ci piace ascoltare un po' di tutto. Ma non della serie accendo solo la radio e mi becco quello che sta. Ci piace andare a scovare tra i cassetti, non limitandosi ad andare per genere. Infatti, noi non siamo granché ben visti nel mondo proprio rockabilly italiano. Sì, perché siete un po' fuori, nel senso, non siete proprio ortodossi, possiamo dire questo. Sì, sì, siamo un po' fuori, cioè, infatti un po' di volte abbiamo avuto difficoltà, poi quando sono visti magari hanno detto, ah, sono bravi, però suo nome fa schifo, cos'è, Ricchioni, eh? No, non è niente di tutto, è vero. Cioè, c'è un po' di pregiudizi, no, ma non è per quello Recchiabili, perché era il soprannome, sì, era il soprannome di Guy, è un po' limitante come nome, sì, perché tutti i nomi con Billy, sì, certo, diciamo, fanno, mentre appunto come avete sentito, noi cerchiamo di spaziare un po', quindi uno pensa subito Billy, Rockabilly, bla bla bla. Però lo teniamo, cioè non lo cambieremo mai sto nome, lo teniamo proprio a petto in fuori, perché appunto era il soprannome di Guy che poi, certo, abbiamo, certo, ereditato. E quando abbiamo formato la band cercavamo un nome, tutta Bari ci chiamava Recchiabilly perché eravamo, perfetto, un po' gli eredi di questa cosa qua, lo portiamo volentieri avanti. Sarebbe bello anche parlare un po' di Rockabilly, ma tempo è poco. Tirano, beh, possiamo avere sempre un altro appuntamento, Dario, per parlare del Rockabilly italiano a disposizione. Ecco, casomai ci penseremo, se tu sei disposto. Allora, io sono a Bari non ci fa niente, quindi c'è tutto il tempo. Allora, per fare, guarda, tutto. Ti prenderemo in parola, vedrai che passato agosto ci risentiremo. Come Caraibi qua. No, si fa sempre qualcosa a Bari. Dopo i cittadini di Bari sono molto contenti. Tra l'altro è una regione come molti altri del nord amo, perché vengo spesso, non dico spesso, ma abbastanza a Ostuni, a Polignano, sono venuto a Lecce, sì. Bellissimo, magnifica. Il batterista è di Ostuni, ieri siamo stati ad Ostuni, è spettacolare. So. Ascolta, Dario, io volevo chiederti anche una cosa, sì, importante. Il 6 agosto a Budapest c'è un appuntamento importante. Sì. Non dobbiamo dimenticarci di andare, assolutamente. Vogliamo dire di cosa si tratta? Si tratta del Ziget Festival a Budapest, uno dei più importanti, uno dei più grossi in Europa. Abbiamo la fortuna di tornarci per la seconda volta. Ci siamo stati nel 2008, ci torniamo quest'anno, ed appunto questo sta a dimostrare che a Bari invece qualcosa la fanno, altro che tramite l'Alternativa, che è l'associazione che organizza appunto da tanti anni il palco allo Ziget Festival, e Puglia Sound, che conoscerete sicuramente, è un portale che, sì, ha fatto tante cose in questi anni, da quando è nato qui in Puglia. E, insomma, siamo stati selezionati tra le band che rappresenteranno la Puglia e no, l'Italia proprio, l'Italia, perché ci sono, sì, tanti gruppi da tutta Italia, anche più famosi di noi, insomma, in questo palco di Puglia Sound allo Ziget Festival, ed è un'esperienza pazzesca, è veramente bello. Cioè, noi siamo stati nel 2008, non vediamo l'ora di tornarci, perché è un parco giochi per i musicisti, ci sono concerti 24 ore su 24 con band le più forti del mondo, ci sono le band più grosse del mondo, e c'è modo di capire come suonano, quali sono i suoni, e percepire l'energia in mezzo a centinaia, anzi a migliaia di persone lì su quell'isola. Poi Budapest è pure una bellissima città, quindi vale proprio la pena. Senti, Dario, un domandone. Sì. Ma le orecchiette sono rockabilly, swing, jazz o country? Allora, le orecchiette sono swing. Assolutamente. Si immagina in ogni caso, tutti i generi possiamo. Si immagina in ogni caso, Dario. Sì, no, si immagina in ogni caso, anche i jazzisti mangiano le orecchiette, non so che. Abbiamo ancora più. Dimmi. Le orecchiette sono swing perché dai, nel primo disco, che si chiama Quello che mi piace, nella copertina c'è un piatto di orecchiette, era tra l'altro, pensate, nel 2001-2002, appena successo il fattaccio delle Torri Gemelle, certo, c'era questa copertina con un piatto di orecchiette crude, con un'orecchietta con una bandiera americana sopra, e poi dall'altra parte della vita copertina ed era sporca di sugo, tutto era sporco di sugo, questa immagine, insomma, una cosa abbastanza forte, quindi diciamo che le orecchiette sono swing. Ecco. Dario, ti chiedo, senza entrare nel merito, poi nello specifico, magari parleremo più avanti, 5 nomi di musicisti italiani, del passato, del presente, che ti vengono in mente. 5 nomi di musicisti italiani, mi viene in mente Sergio Caputo, che ho avuto la fortuna di vedere un paio di volte, mi viene in mente De André, mi viene in mente Gaber, mi viene in mente... Dalla, mi viene in mente Little Tony. Me ne vengono in mente tanto, mi piace un sacco, ci sono un sacco di belle cose nella musica italiana. Mi viene in mente anche Capossela. Certo, che siete molto legati a Capossela. Sì, non sì, dal sì, punto di vista del suono, ma dal punto di vista dell'argomentazione, del live, di suonare, sì, di trovare sempre degli argomenti diversi, quello sì. Lui scrive in maniera magica, noi insomma siamo suoi allievi, diciamo. Ecco. Dario, noi purtroppo, come al solito, il tempo corre velocissimo, come già ti avevo detto oggi avremo tantissime cose da chiedere, il tempo ci vola. Comunque, con Maurizio abbiamo buttato questo. Sì. Una prossima puntata, Dario, parleremo del rockabilly italiano, visto che voi siete degli esponenti importanti, lo svisceremo. Un'oretta, sì, possiamo parlare di tutto, ma soprattutto del rockabilly italiano, che non è un genere molto famoso, ma che sta prendendo piede. Delle grandi band in Italia. Esatto, sì, sta prendendo piede finalmente. E non solo quello americano, quello americano, ma quello italiano è importante. Allora, noi chiudiamo con questo è il rock and roll. Che dici, Dario? Ma io direi proprio di sì. Un inno al rock and roll. Ci saluti tutto il vostro gruppo che tu rappresenti. Assolutamente sì, tra un po' siamo a cena tutti insieme, quindi ecco, lo saluto proprio subito. Bene, tutta Blu Radio Veneto. Voi salutatemi il Veneto, certo, come vi ho spiegato sono particolarmente affezionato a quella regione, anche perché da un anno vivo in Veneto. Voi non dove, lo sapete. Dove vivi? Come? Dove, che posto del Veneto? Oddio, è abbastanza sconosciuto, si chiama Stienta, in provincia di Rovigo. Però, distante da qua. Che così se capitasse magari anche che riusciamo a organizzare un piccolo fare un giretto, live, non sarebbe male. Un giretto si potrebbe mica fare. E allora, volentieri, viviamo lì io e la mia signora da un annetto, insomma. Quindi non è tanto distante Rovigo da Padova. Sono veneto di adozione. Perché allora così, Dario, possiamo fare anche due ore di parlare un po' di tutto, fare anche un live. Come no? Certo, un po' di chitarra, un po' di musica, Dario, due ore secche e via, tutto dal vivo. Volentieri. Tutto a Blu Radio Veneto vi ringrazia, Alberto Prisco che è il nostro direttore artistico, anche lui si associa a questi saluti. Ok? Grazie a voi. Dario, grazie ci a voi. Sentiamo domani e ti faccio un colpo di telefono, ok? Va bene, grazie a voi. Ciao, grazie Dario. Ciao. Buona serata. Ciao. Proprietario dice suona per me. Pensi che sia andata male o che sia tutti male, ma pensi male perché non c'è piatto da lavare, pizza e birra da pagare, anzi è lui che paga me. Questo è rock and roll.